C'ho il rap dall'album Veleni 2010. Presenta Referendum. Gli allevatori protestano, si arrabbiano e spaccano il fan. Le persone sono assai astute e vogliono la salute e fan. Mentre l'Ilva non va, un'associazione o più fa. Il referendum arriva già e fa. Scelta facile, per alcuni difficile, per un'azione complessa, le corde messa, e più si affloscia come questa S moscia. A morte, questa è la loro sorte, piegati innanzi alla corte, e l'Unione Europea li fa, e le sbarre in galera fan, e le famiglie in colera fan. Giustizia per tutti, alla faccia dei corrotti, senza soldi a sua volta non conti, e noi siamo pronti a farti. Capretti sacrificati, allevatori mortificati e alcuni minacciati. Latticini diossinamente contaminati, il gregge alle porte dell'Ilva fa e le schegge nelle mani fa. Ottenuto il referendum, ci attaccheremo come una big gun. Faremo capire che la TV ci vuole azzittire, ci vuole censurare, non ci vuole far parlare. Come te lo devo spiegare? Ci vogliono imbavagliare per non parlare di, per non parlare di. Per non parlare, non ti dico di chi, lascia stare, ma il referendum sa da fare. Siamo pronti agli scontri, siamo pronti agli affronti, corazze del nesto addosso. Per l'Ilva iniziamo a scavargli il fosso, me la sto ridendo a più non posso. Ma io non mollo l'osso proprio adesso, ammesso e non concesso, io non sono un fesso. Perché qualcuno ce l'ha messo, capisci dove? E questo sindaco non si muove, parla, parla e sempre parla. Per lui è tutta una burla e la gente gli si accolla. Firma, firma, firma il referendum, firma, firma, firma, io non mi arrendo. Firma, firma, firma il referendum, firma, firma, io non mi arrendo. E sì, io non mi arrendo, io non pretendo di farti capire la mia opinione. Tanto si sa già, sei un boccalone. Le missioni ci sono sempre e comunque, e ci saranno fino al dunque. Il dunque è la fine di Taranto, non lasciarlo che vinca quell'impianto. Possono avere molti soldi, fanno la parte degli stolti. Ci possono schiantare molti, ma l'idea rimane quella. Taranto sarà la nuova stella, perché Taranto è bella, vieni a vederla. Il centro storico da favola, nah, lupus si infabula. Passeggiando fra le vie ci si sente accolti e si vedono molti volti. Sono persone simpatiche, sono persone con dei valori. Cercano di dimenticare l'Ilva e i suoi odori. Cucinando da mangiare, dalle case esce odore di buon vino. Musica napoletana a palla, musica moderna si alterna. Chiese, monumenti e molti credenti. Amico mio, ho chiesto a Padre Pio di aiutarmi e guardare questa situazione. Il referendum è arrivato, piango dalla commozione. Questa azione è assai confortevole e per gli altri è un colpo basso sgradevole. Signor onorevole, alzi il culo e ci aiuti pure lei. E si guadagni la fama attraverso gli occhi miei. E se non ci riesce, pazienza, ci ha provato come noi. Firma, firma, firma il referendum. Firma, firma, firma, io non mi arrendo. Firma, firma, firma il referendum. Firma, firma, firma, io non mi arrendo. Non posso arrendermi, non possono stendermi. Ho tutto il diritto di difendermi. Mi complimento con tutte le associazioni. Togliamo questi barbari fuori dai coni. Mi complimento con tutti i paesani. Noi siamo i più forti e loro sono nani. Sono arrabbiato? Si sente? Se sei un cittadino tarantino, vai al referendum e salva questo scenario marino. Difendi le piante, a sua volta la gente. Così facendo sarai un eroe dalla nostra parte. Hai salvato tante vite dalla morte e ora prendi il megafono e grida. Firma, firma, firma il referendum. Firma, firma, firma, io non mi arrendo. Firma, firma, firma il referendum. Firma, firma, firma, io non mi arrendo. Bravo fratello, e voi fate come lui. C'è il letto.